Yo. E allora, come avete sbagliato, Radio Unina è sempre sintonizzata sugli 87.9 del Radio Onda Rossa, la meglio radio in Townsend, la radio di chi se la sente. Regà, stiamo a fa 37 anni, siete pronti? Il 24 maggio in un posticino chiamato Forte Prenestino, radici nel cemento e amici, anzi, radici e amici alli guai. E allora, oggi ci è venuto di nuovo a trovare, come chiamarlo, il critico bastardo Luca. Ciao Luca. Ciao, buon pomeriggio. E vabbè, che ve lo dico a fa, ci lanceremo su jazz ed essendo noi molto moderni, come dire, abbiamo fatto un passo avanti dagli anni 20 e 30 del mese scorso e siamo arrivati a un anno specifico, il 1959. Luca, perché il 1959? Beh, il 1959 è l'anno del... Sì? Vai, ok, vai. Beh, il 1959 è l'anno che ha rivoluzionato il jazz moderno con l'uscita di parecchi dischi di Miles Davis, Coltrane, Dave Brubeck, Ornette Coleman. E adesso piano piano li andremo ad affrontare e vedremo appunto quali sono le innovazioni, soprattutto la rivoluzione di questi dischi. Senti, scusa, io sono De Parte, te lo sei portato Kind of Blue? Beh, direi che 1959, sì. Dai, con che cosa cominciamo? No. Iniziamo attenzione. Con quello che è forse il brano jazz più famoso, il tema più famoso della storia del jazz. Direi di non dire niente e di metterlo. Happy Birthday. No. Ok, va bene, sentiamocelo, dai. Thank you. Senti, ma chi è che stai seguendo questa simpatica melodia? Allora, lui è David Brubeck al piano, ma il pezzo è di Paul Desmond, che tra l'altro ha pure un'origine strana questo pezzo, perché nacque per far scaldare il batterista Joe Morello e quindi fece questa melodia, il batterista gli andava dietro e nacque uno dei pezzi più famosi della storia del jazz. A Morello dannata de lusso, va! Insomma, si sente che il pezzo era stato fatto per il batterista, perché non solo così di batteria. Assolutamente sì. E diciamo che è definito jazz pipa e vestaglia, cioè molto da salotto, molto relax, diciamo un inizio così soft. Pipa e vestaglia è fantastico. Eh sì, jazz tipicamente bianco. Queste sono veramente quelle melodie semplici fatte di poche note che comunque hanno un valore evocativo grandissimo, pure perché è stata risuonata da innumerevoli musicisti questo brano. Io tra l'altro mi ricordo una versione di Jacob Miller, Stand a Firm. Bravissimo, bravissimo. Jacob Killa Miller from Jamaica. Beh, sì, perché in Giamaica comunque non è che importano musica, ma se la rifanno, quindi se gli piace un pezzo lo piano paro paro e lo rifanno, diciamo, con uno stampo reggae in battere le varie. E diciamo che questo pezzo ha contribuito alla vendita dell'album e fu il primo disco jazz a raggiungere il milione di copie vendute. Un milione! L'animo priatoria! molto delicatino, sì. Senti Luca, ma tra questa pila sterminata di CD che ti sei portato, tutti naturalmente rigorosamente usciti nel 1959, ma ce ne sta qualcuno registrato da Rudy Van Gelders? Ma lo sai che no? stava alle Hawaii, capito? Il vecchio Rudy. Eh beh sì, se la stava a scialare, ormai aveva già fatto i soldi abbondantemente nel 59, dai. Era il suo anno sabbatico evidentemente. Evidentemente. Sembra un po' registrata da Rudy, con questo piano lontano che fa sta melodia così accattivante. Ma magari c'era lui e non l'ha voluto scrivere. Il suo zampino. Il Rudy occulto, vabbè, va. Senti, l'abbiamo nominato, quindi mi sembra giunto il momento, anzi è già troppo tardi per metterlo, che ci stiamo andando ad ascoltare. Beh, adesso ci ascoltiamo il disco più famoso in assoluto nella storia del jazz. Fai conto che ha venduto 3 milioni di copie, Rolling Stones l'ha inserito fra i 10 dischi più famosi di tutti i tempi. Lui non poteva che essere Miles Davis, e questo è il suo capolavoro assoluto, ossia Kind of Blue. poi diciamo che essendomi addentrato così in questo viaggio ritroso nella musica, o almeno quella che abbiamo registrato, quindi più o meno insomma dai primi anni del Novecento e comunque anche prima, il ragtime, sono state riregistrate in seguito le cose, riflettevo su quant'era diverso, proprio come veniva vissuta in maniera differente proprio la musica, ecco, nell'Ottocento, a fine Ottocento, uno spartito di un brano di ragtime vendette 1 milione di copie, uno spartito oggi, cioè penso sia veramente impensabile, no? Poi alla fine quando riesci a trovare gli spartiti, i libercoli di spartiti stanno là impolverati negli scaffali dei negozi. Poi casomai questo brano, questo disco nel 1959 uscito, ha venduto 3 milioni di copie, cioè, ma oggi probabilmente neanche la singola canzone di Madonna o di Lady Gaga. È proprio diversa la percezione, veniva fruita anche più la musica come una cosa, come la poesia, è una cosa da viversi in dei momenti da solo di rilassatezza, rispetto a oggi la musica è vissuta insomma nel gruppo, no? Nel concerto o comunque nella discoteca, più musica per ballare che per diciamo evolversi ascoltandola, imparare, cercare di capire. Sì, tra l'altro, parlando di spartiti, in questo disco è famoso perché non vennero fatte prove. Erano tutti pezzi nuovi, originali, e di cui Miles diede solo dei bozzetti con le linee melodiche sui quali improvvisare. Ahimè, o ai noi, cioè, aveva dei solisti veramente incredibili come Julian Kellenborn Edry, Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers e Jimmy Cobb, e quindi venne fuori un capolavoro. Sì, che poi lo dicevamo pure l'altra puntata che abbiamo fatto insieme su Rudy Van Gelder, il concetto di swing, il concetto di stare sempre tutti insieme, di far evolvere la musica, il singolo brano anche mano a mano che si va avanti, quindi appunto musicisti rodati, perché comunque anche a loro è vero che casomai non facevano prove, però è vero che suonavano tutte le sere casomai nel peggio localetto in sì. Cambio di un paio di bottiglie di whisky, comunque era tutta gente che si conosceva, era tutta gente che si affiatata diremmo oggi, con la spontaneità che sì. Veniva fuori da sola, e quindi insomma era veramente tutto molto più facile rispetto ad adesso, e i risultati appunto erano questi. Senti, ovviamente dicevo che questi personaggi molto spesso si trovavano a suonare tutte le sere, o comunque era proprio diverso, iniziava già la radio, era difficile che le persone avessero la radio a casa, quindi la musica l'ascoltavi veramente dal vivo. Solo dal vivo. E casomai suonavano per, non sarà proprio così, ma insomma un paio di bocce di whisky, un po' romanzata come visione. Invece da poco c'è stato all'Auditorium un concertone, costava 80 euro, noi comuni mortali non ci siamo andati, ma mi sa che tu, rimediando un accredito da qualcuno di quei giornalacci dove lavori. Beh, io sono andato per lavoro, sì, e mi aspettavo un concerto commerciale, un concerto, diciamo, una classica campata di rendita. Senti, stiamo a parlare della Duke Ellington Orchestra, dell'orchestra ufficiale di Duke Ellington. Senti, quanti elementi? Erano 15 elementi, di cui 12 fiati. Bombo. E l'effetto è stato veramente devastante. Senti, hanno fatto un concerto di 45 minuti, com'è andato? Hanno suonato fatto per 2 ore? Un concerto di 2 ore, tutti rigorosamente in smoking. Ah sì, Sì, assolutamente, con la cosa fantastica, gli arrangiamenti originali di Duke Ellington. E quindi puoi immaginarti bene il risultato. Sì, infatti me l'immagino. A me adesso mi viene in mente così i Blues Brothers, no? Il concerto finale, quello in cui scappano Cap Calloway tutti smoking. Vabbè, loro c'avevano pure gli occhiali neri, non penso che la Duke Ellington Orchestra non erano a questi livelli, comunque erano ineccepibili. Dai, va bene, allora passiamo a un altro grande, ci vuoi introdurre tu questo brano? Sì, diciamo che ricollegandoci a Kind of Blue, questo disco ha fatto la fortuna anche di tutti gli altri musicisti che erano presenti in questo disco, e adesso ci andiamo ad ascoltare quello che fu il primo disco composto solo da brani composti appunto da John Coltrane. Questo è Giant Steps. Thank you. Beh, questi signori sono decisamente più scatenati. Beh, già Steps, passo da gigante, cioè, veramente una quantità di note per millisecondo impressionante. Siamo in piena epoca di jazz modale. Impressionante, stanno andando veramente a 380. Che poi per chi sta un attimo fissa con gli ottoni, la tromba, insomma, sente anche i trombettisti quando fanno le loro prove spernacchiando così qua e là in giro per le stanze, dici: ma come fanno a fare sti suoni? Ma che pernacchie stanno a fare? No, ma tra l'altro la particolarità è che questo brano è basato su una progressione armonica basata su intervalli di terza maggiore, che insomma è una difficoltà assoluta per i solisti ed è diventato proprio un banco di prova per qualsiasi solista da qui in avanti poter improvvisare su Jan Steps. Questo appunto era Jan Steps, brano veramente a manetta. E passiamo adesso a Naima, che era una ballad dedicata alla prima moglie di Coltrane. Eccola qua. bello come questi strumenti dialogano su un tema comune. Questa che si capisce alla fine che è una canzone d'amore, ed è carino perché sembra anche, capito, i momenti più teneri, i momenti casomai discrezio, i piccoli diverbi, insomma io mi sono fatto un film sentendo il pianista. Ci sta tutto. Fantastico, yeah. Veramente. Adesso ci spostiamo, direi, da New York a Los Angeles con il primo disco di Charles Mingus per la Columbia, Mingus and Whom, Better Get Yours. Cioè, il nome del CD è Mingus a Whom. Pensa come gli stavano nel 59, sin. Che poi noi di solito sentiamo parlare del duetto, del terzetto, questo è un ottetto, cioè erano in otto? È un ottetto, ma con una ritmica formata da Mingus e Danny Richmond, che veramente spacca. No, ma poi è incredibile, come al solito, la quantità di note che riescono a fare. Quando sei tanti è pure difficile che riesci a fare tante note, tutte si incastrano. Beh, cioè, parliamo di Mingus. Cioè, incredibile, sembra che il pianista sia incantato. Non so se hai notato, saranno 30 secondi che sta a fare la stessa cosa. Cioè, si è incantato proprio, eh. Sì, il pedale di quelli proprio lungo, lungo. Lungo, lungo. Veramente. We'll be right back. che poi comunque è bello pure vedere, forse prima non ci ho prestato abbastanza attenzione, i nomi dei CD, a parte che parliamo di musica strumentale, il discorso che facevamo prima è un concetto proprio differente, oggi penso veramente in pochi si vanno a acquistare questo genere di musica, sempre meno, mentre allora parliamo di numeri di milioni di copie. Ma comunque, per chiamare un CD cioè devi star veramente, cioè devi star veramente dentro, ma davvero dentro. Ma Mingus poteva e ora ci siamo ascoltati la traccia di apertura, direi sono 9 brani, uno più bello dell'altro. È pazzesco, questo CD è pazzesco. Ora ti faccio sentire l'ultima, dedicata a Jerry Roll Morton, quindi un pioniere del piano jazz anni 30 e un grande. E senti come lo rielegge Mingus. Dai. Che poi è veramente curioso, mo stavamo dicendo, facendoci una chiacchierata tra di noi, come proprio il 1959 ha visto l'uscita di tutti questi album, comunque di personaggi, alcuni già fermati allora, quindi insomma, cioè tutti questi brani sono stati tutti composti nel 1959, cioè negli ultimi 30 anni non c'è un solo brano che possa essere paragonato per importanza, per innovazione, per rivoluzione a uno qualsiasi di questi brani. Tra l'altro, cioè abbiamo fatto una selezione, ma ce ne sono veramente. Sì, ovviamente ci sono poi dei momenti di svolta, insomma, non vorrei sminuire, però mi viene in mente anche gli anni 80 col MIDI, quanto hanno reso possibile casomai fare la musica per tutti, casomai comunque il 1959 era più facile stampare i dischi, c'era, capito, era neanche, perché insomma io... deve essere stato anche per i produttori, capito, un momento per cui era possibile ed era anche diciamo aveva un senso fare uscire tutti questi CD, sì, anche economico, no, immagino probabilmente sì, costava meno produrre, costava un meno disco. La gente comprava tanti dischi, diciamo che c'era il boom del mercato discografico e questo è sicuro, però non c'è stata una svolta tecnologica che ha fatto sì che ha aperto le menti dei musicisti, era proprio un'idea, un mood che andava in giro e creava certi capolavori. Sì, sì, evidentemente è stato proprio un momento topico. Senti, ma ce ne sentiamo un altro di Mingus? Adesso ti faccio sentire un pezzo di Mingus, sempre 1959, ma di un altro disco, cioè neanche di San Mingus, no, lui ne fece uscire 4 nel 59, di cui questa Moanin, presa da Blues and Roots, senti che roba. We'll be right back. Cioè, incredibile quanto sta scendendo in basso sto sax baritono, io sentendolo in cuffia, veramente impressionante. E poi fa molto James Bond questa musichetta, eh? Mi sa che qualcuno ha parruccato qualcuno qua, perché c'è, ce n'è, eh? Beh, nel 59 credo che sia stato un precursore. Me sa. Poi questa è pure la musica a cui si sono ispirati gli Scatalites, ma non solo, comunque le grandi band. Beh, io ci vedo molto gli Scatalites. Voglia, in Giamaica comunque c'era molto l'influenza di quello che succedeva in America. Già qua siamo praticamente negli anni 60 quasi, quindi insomma ci stiamo. Indubbiamente sì, assolutamente. Questo insieme di note mi riporta all'aria di festa, perché regà, 37 anni, cioè era il 24 maggio 1977 quando Radio Onda Rossa iniziava le sue trasmissioni, sono passati 37 anni. Quindi diciamo che venerdì 23 maggio qua nel quartiere a Via dei Volci, prima dalle 16 proprio negli studi della radio, fai gli auguri a Radio Onda Rossa, e dalle 18 l'aperitivo a Via dei Volci. Mentre invece sabato 24 maggio c'è proprio l'Onda Rossa festa, diciamo Radio Onda Rossa festeggia il suo 37esimo compleanno con una giornata dedicata alle lotte di ieri e di oggi. Dalle 5 ci sarà controimmagini, video e foto, insomma da starci, pure perché ci sarà l'aperitivo e DJ set poi con i DJ di Radio Onda Rossa, e che ve lo dico a fa la cena con la cucina del Forte Prenestino, ali guai. Chi gli è capitato di mangiarsi qualcosa in quella trattoriola sa di cosa stiamo parlando, sì, big up! E poi dalle 11 di sera cominceranno i concerti, prima i Percezione Sesto Senso, Reggae d'Atri, che sono anche stati qua spesso ospiti, diciamo, negli studi di Radio Onda Rossa, i Radici nel Cemento, nostri vecchi amici con i loro Friends. Il tutto naturalmente 5 euro a sottoscrizione per Radio Onda Rossa. Quest'anno Radio Onda Rossa vuole festeggiare il suo compleanno mettendo a disposizione del pubblico una prima porzione del materiale audio, video e fotografico che fa parte dell'archivio storico della radio, costituito da migliaia di ore di trasmissioni e da filmati e fotografie realizzati da Alfio Di Bella, che fu tra i primi collaboratori di Radio Onda Rossa. Il recupero di questo materiale fa parte di un progetto che la radio porta avanti da alcuni anni e che è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma, della Sapienza di Roma chiaramente, per quanto riguarda la digitalizzazione delle vecchie trasmissioni audio, con l'Università di Gorizia per il recupero e la digitalizzazione del materiale video. A partire dalle 17 saranno proiettati filmati inediti sulle lotte antinucleari degli anni 70, sul comizio di Luciano Lama, tenutosi quasi per un pelo all'Università La Sapienza nel febbraio 77, sull'occupazione della Fiat dell'80 e sul terremoto dell'Irpinia. Una mostra fotografica intitolata Controimmagini illustrerà invece le battaglie contro le speculazioni edilizie a Roma negli anni 60 e 70 e le lotte a Comiso dell'83 contro le basi missilistiche della NATO. A partire dalle 21.30 saranno proposti audio e video storici incentrati sul quartiere di San Lorenzo e la storia della radio stesso. Chiuderemo la serata con il concerto dei Radici nel Cemento, band reggae da sempre sostenitrice di Radio Onda Rossa. In apertura sul palco saranno con noi Percezione Sesto Senso, gruppo della scena reggae proveniente dall'Abruzzo. Gli anni passano, una volta eravamo i pupi di sta radio, eh? E invece siamo quelli di mezzo adesso. Grazie per il di mezzo, grazie. Mo' da pure io, cioè, a modo di essere carini e tanto salvarsi. Che dire, io credo che solo per ringraziare Alfio Di Bella è bello venire a vedere e partecipare al suo materiale, venirlo a vedere, venirlo a leggere, a qualcosa a sentire, a vedere le fotografie, perché il lavoro che ha fatto Alfio, casomai partendo dall'idea di essere un militante e un archivista, invece adesso è un patrimonio della radio, ma non solo, ma anche di fotografie degli anni 70 che non sono state ritoccate da nessuno. Assolutamente, perché noi comunque adesso siamo in un'era in cui tu col cellulare fai le foto, è facile vedere. E con Photoshop, tra l'altro, ti tocchi, fai sparare, bellissimo, gli occhi rossi, gli occhi verdi. Invece, mano a mano degli anni indietro, è più difficile trovare immagini originali, vedere anche, perché poi sai, dalle foto si percepiscono veramente le situazioni, gli sguardi, le tensioni. E molte lotte ci si ricorda che erano di ieri, noi abbiamo resistito, i compagni sono riusciti casomai ad allontanare dei pericoli da noi che adesso stanno, come si dice a Roma, rientrando dalla finestra. Quindi insomma, vedere anche che spesso le lotte non sono altro che un continuo resistere, no? Quindi ad allontanare un nemico che poi però insomma, penso appunto al nucleare, a quanto se ne è riparlato anche in questi ultimi anni, parlavamo a Comiso appunto era l'83 e insomma quante altre battaglie, appunto la tua maglietta, cosa più azzeccata. E quindi insomma non scordarsi mai che le lotte dei nostri cugini degli anni 70 casomai sono anche quelle nostre, e probabilmente tristemente insomma Fukushima insegna diventeranno quelle dei nostri figli, insomma della serie a volte tornano, ma noi stiamo sempre qua. 37 anni di Radio Onda Rossa, sabato al Forte Prenestino, per chi volesse venire venerdì nel quartiere Alli Guai. Senti, va bene, io non ho potuto resistere a leggere tutto questo stupendo flyer, adesso vedrete i poster per la città e i flyerini in giro. Intanto siamo usciti comunque dal Trip Mingus, perché qua rischiamo con tutti gli album che ha fatto nel 59 di non uscirne più. Beh sì, però entriamo nel vortice Ornette Coleman. Dai. Sì. Noti che manca uno strumento? Sì, manca qualcosa, ma sono talmente ammaliato da queste ance, come dire. Beh, un quartetto dove manca il pianoforte, lo strumento armonico per eccellenza. Beh, sì, pure perché il pianoforte, insomma, diciamo, ha la peculiarità di coprire un po' tutte le ottave, diciamo, rispetto agli altri strumenti, e quindi fa sempre da amalgama. Di solito è, insomma, uno strumento che facilita anche l'ascolto. In questo caso, infatti, l'ascolto, appunto, stando in cuffia, si sente proprio il cambio di focalizzazione dell'attenzione, che stai proprio sui singoli fiati, li senti uno per uno molto più chiaramente. E questo fu un disco veramente rivoluzionario, ma veramente, tant'è che sminuì l'uscita di Kind of Blue, perché fu veramente una bomba atomica sul jazz questo disco, e tant'è che Miles Davis non gliel'ha mai perdonata. Ah, perché poi le faide tra di loro, vabbè, ne stiamo a dire che ci dovremmo fare una puntata a parte. Che poi comunque sul pianoforte io mi ci sono trippato a lungo, oltre le otto ottave, diciamo, che copre, c'è anche un discorso di interferenze continue, per cui ogni singola nota gira, genera innumerevoli armonici proprio nella cassa di risonanza, e quindi comunque amalgama la musica. Io mi ci sono intrippato tanto in studio col lavoro della Tribù Acustica, insomma, nei mixaggi, ovviamente, appena andavamo a inserire un pianoforte cambiava proprio l'emozione, l'energia del gli accordi del aprono tutto, e quindi la melodia è sì, tutti gli armonici, assolutamente, pianoforte, sì. Che poi da questo è andato anche avanti un filone del jazz senza pianoforte, comunque, che ha visto. Beh, sì, lui fu un precursore totale, soprattutto del free jazz. Quindi, anche se lui ancora era abbastanza melodico, non era il free jazz quello spinto. Infatti. Siamo nel 59, comunque. Però nel 59 la critica lo bombardò, perché veramente. Quelli come te. Esatto. Dimolo. Non venne proprio ben accettato Ornette Coleman. Comunque anche Coleman nel 59 mica ha fatto uscire un disco solo. Bah, figurati. Questo era The Shape of Jazz to Come, che appunto vuol dire la forma del jazz che verrà, cioè dai titoli veramente evocativi. Quest'altro invece che ci andiamo a sentire è Tomorrow is the Question, che già la dice tutta. L'anno è sempre il 1959. Cioè, di solito si dice che tocca sparare al pianista, ma in questo caso tocca sparare al contrabbassista, perché non so se senti che sta combinando. E il trombettista chi è qua? È carino come spernacchia, però, eh? È proprio Don Cherry, sì. tale padre di Nene Cerri, Nicolai Cerri, è personaggio storico veramente nella storia del jazz. Cioè, lo chiamavano Don, non voglio dire nient'altro, eh. Va bene, senti Luca, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un'ultima traccia, perché Attica Blues volge al termine. Come mi piace di sta cosa, come mi piace. Che ci fai ascoltare? E mo sentiamo quel pianista di Kind of Blue, ossia quel Bill Evans che si è inventato il trio, la storia del trio col piano, Bill Evans, Scott LaFaro al contrabbasso, Paul Motion alla batteria, Periscope. Pure lui mica ha fatto un disco solo nel 59, no? Beh, ma questo però è il più famoso, forse. Non si sono fatti, manca a nulla proprio. Se sono fatti, manca a nulla. Fare i dischi, poi non è che fossero proprio amanti elogiati, questi, no, anzi, coloriti, no? Quindi giustamente quale valvola risponde? Hai voglia, ma infatti questo stavamo provando anche a capire come mai il 1959 fu un anno che vide tutte quelle produzioni, perché immagina tutti questi dischi più tanti altri, tutti nel 1950, quindi stavamo cercando. Beh, io credo che comunque era un anno in cui nel campo musicale, adesso al di là del jazz, comunque la musica nera aveva veramente già azzittito il continente. Che comunque direi dal swing al soul già si cominciavano, no? Beh, c'era Richards, Nina Simone. Esatto, quello ha fatto sì che insomma già insomma, almeno dal punto di vista musicale, poi dovranno passare anni prima che il mondo poi si Torneranno più questi anni, credo. No, non torneranno più. No, dovranno passare anni prima che il nero non musicista potesse vivere dignitosamente, questo volevo dire, no? Cosa che invece è stata molto è accaduta molto prima con la musica, no? Poi da lì a poco, un'esplosione, un apporto tale che da lì a poco la Motown, cioè comunque cambierà. Si dice che il jazz è stata la prima vera arte afroamericana in America, sì, pure perché già che ne so, negli anni 40 c'erano le band di bianchi che rifacevano per le produzioni le canzoni che andavano per la maggiore nel mondo dei neri, appunto nei peggio localacci, quindi diciamo forse c'è stato anche il superamento definitivo di questa cosa e l'affermazione a questo punto della musica nera a livello anche commerciale, perché poi tutto questo doveva avere una base commerciale, sennò mica potevano produrre tutti questi dischi. Certo, sì, certo. Ma comunque questi dischi, anche questi brani eseguiti nel 1959 potevano essere eseguiti solo in club per un pubblico bianco. Pubblico nero non poteva assistere. Voglio dire, la storia di Billie Holiday ci narra che era troppo pallida per i neri e troppo scura per i bianchi. Questa è stata metà della sua devastazione, perché lei comunque in questa esclusività era sempre un po' un ibrido. Uguale Mingus, che non era né bianco né nero. Invece la biografia, peggio di un bastardo. Esatto. Quindi voglio dire, diciamo che... Va bene, dai, andiamoci a ascoltare questo Bill Evans. Qual è la traccia? Che cosa ci fai sentire? Periscope. Thank you. Certo che vibes sta musica. Luca, io ti ringrazio veramente per esserci venuto ancora a trovare, portarci tutta questa musica che poi insomma io alcuni dei CD che sforni casomai ce li ho semplicemente visti o ascoltati, ma comunque è sempre un piacere pure vedere che insomma le persone hanno ancora proprio la musica fisicamente, non so come dire. Poi sono bellissime le copertine, ma sì, c'è tutto un mondo, il book dentro, cioè. Sì, comprate dischi originali. Dai, va bene, allora ci vediamo, ci sentiamo prossimamente, grazie ancora, un bless a tutti e noi ci sentiamo giovedì prossimo, mi raccomando puntuali alle 4:00 perché noi col fuso orario di Kingston sai com'è. Yeah, 2 mesi in futuro.